In Italia ci sono praticamente 28 milioni e 400 mila utenze domestiche che usano il gas per riscaldamento, produzione di acqua calda e cottura di cibi. Di tutte queste utenze, secondo i vostri calcoli, i vostri rilievi, le vostre statistiche che immagino facciate, quante situazioni non sono a regola, a norma? Ma se bisognerebbe dare un numero, molte. Dai nostri rilievi siamo oltre il 95% di impianti non a norma, perché effettivamente le norme poi sono talmente stringenti, che creano una serie di problemi per l'esecuzione di impianti perfettamente a norma. Ma questo non è derivato solo da una carenza nella fase di installazione. Purtroppo ci sono molti utenti che creano problemi poi di impianti non eseguiti a norma, andando a modificare in maniera impropria questi impianti o affidandosi a installatori appunto non iscritti regolarmente. E quindi, per esempio, le problematiche più diffuse quali sono? Perché magari, non so, abbiamo acquistato una casa di recente, magari la famiglia che ci ha venduto la casa ci ha rilasciato la dichiarazione di conformità, ma in realtà poi scopriamo che l'impianto non è a posto. Perché? Quale potrebbe essere il problema più diffuso? Così magari ci mettiamo la testa, Piccione. Uno dei più diffusi è quello della mancanza di fori di ventilazione e areazione, che molto spesso, anche quando poi ci sono, magari utenti li vanno a occultare o a mettere ostacoli davanti, perché magari il semplice accesso dell'aria crea problemi alla vita negli ambienti cucina o nelle case, ed è una cosa sbagliatissima, perché quei fori hanno proprio una delle funzioni maggiori di sicurezza. O la funzionalità delle cappe, dei camini, dove ugualmente la gente trascura di fare questo tipo di verifiche. La sostituzione dei tubi di gomma. Il tubo delle di gomma, infatti glielo stavo dicendo io, perché credo che quello sia ancora più diffuso di problema. Certo, perché poi ci si dimentica dopo 5 anni che quel tubo di gomma va sostituito. Non si va a verificare la data stampigliata sul tubo della scadenza dei tubi.